9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 4 novembre, buona festa alle forze armate. Ripeto questo inizio di trasmissione perché mi sembra giusto sottolineare che dobbiamo solidarietà e sostegno a chi veste una divisa e rischia la vita in condizioni molto delicate per il paese. Detto questo, di cosa ci occupiamo oggi? Ci occupiamo del mobbing, ci occupiamo della discriminazione sul posto di lavoro. Ci occupiamo cioè delle odiose, intollerabili discriminazioni e differenze che ancora oggi continuano a gravare per ottenere un lavoro, per mantenerlo, per avere una giusta progressione in grado di retribuzione, se si è innanzitutto una donna, se si ha il colore della pelle di un certo tipo, se non si parla bene l'italiano e magari non si ha ancora la cittadinanza, anche se si è in regola ovviamente per il permesso di lavoro. Insomma, questa discriminazione quanto conta, quanto pesa ancora nel nostro paese? E partiamo da un fatto, e quindi vi chiedo di intervenire se a vostro giudizio è un'iniziativa positiva quella di cui parleremo, traendo spunto da essa per affrontare in realtà il problema della discriminazione sul lavoro. Chiamate all'800 24 00 24. Qual è il fatto da cui partiamo? Questa iniziativa assunta in Francia per iniziativa del governo francese, il governo Fillon, è un'idea lanciata da Sarkozy, ma che in realtà si era affacciata nel dibattito pubblico francese prima della vittoria elettorale di Sarkozy. Di cosa si tratta? Del fatto di avviare una sperimentazione tra le aziende per le quali il curriculum per segnalare la propria disponibilità, la propria offerta di lavoro, diventa un curriculum in cui vengono omessi il nome, l'età, il sesso, la nazionalità del potenziale lavoratore. C'è un certo numero di aziende che in Francia si è impegnato a questo progetto sperimentale, che quindi abroga, per così dire, i caratteri essenziali dell'individualità nell'offerta di lavoro. Io vi dico subito che la cosa non è detto che mi convinca, però la mia opinione conta poco. Tentiamo di capire insieme ai nostri ospiti da dove nasce questa iniziativa, se potrebbe essere utile anche per il nostro paese e se soprattutto il nostro paese ha ancora dei caratteri di discriminazione così odiosa da dover rendere necessarie in realtà delle iniziative sia pubbliche che da parte dell'impresa che da parte di chi rappresenta i lavoratori dipendenti. Questo è l'argomento della giornata. Ora inizio a presentarvi i nostri ospiti. Sono collegati con noi innanzitutto Federica Guidi, che è la presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Buongiorno dottoressa Guidi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo poi Jean-Pierre Darnis, che è responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali, professore associato all'Università di Nizza. Buongiorno professor Darnis. Buongiorno. E Alessandra Servidori, che è consigliera nazionale di parità e che proprio tra poco tempo, alle 11, a Roma presso la sala polifunzionale di Palazzo Chigi, presenta la banca dati sulle discriminazioni, l'osservatorio sulle attività di conciliazione. Buongiorno dottoressa Servidori. Buongiorno a tutti. Ecco, Darnis, in poche parole, poi torneremo con lei, ci spiega un po' questa iniziativa francese da dove nasce? Non è la classica riproposizione dello spirito della Repubblica che vuole fare tutti uguali di fronte alla legge, insomma un po' troppo illuminista per i miei gusti, no, ci dica però. Certamente, nasce da una legge votata nel 2007 al seguito delle manifestazioni delle violenze nelle banlieue, legge votata sotto la presidenza Chirac, mai applicata, quindi la cosiddetta legge per l'uguaglianza delle possibilità, delle chance, che non fu mai votato poi il decreto di applicazione. Oggi alcune regioni, particolarmente del nord, hanno deciso di riproporre questo esperimento del curriculum anonimo. È una risposta chiara alla difficoltà di integrazione di alcune popolazioni di origine, quindi ovviamente cittadini francesi, perché da noi l'immigrazione non c'è da 20 o da 30 anni, ma quindi cittadini di origine extracomunitaria che venivano discriminati all'entrata del mercato del lavoro. Quindi un'idea molto repubblicana di uguaglianza, e quindi non vedo la faccia sulla fotografia, non ho un nome a consonanza nordafricana o africana, quindi insomma né Ahmed o né Gemila, che insomma, e uno mette i diploma, l'esperienza e manda un curriculum e dovrebbe, perché si era constatato ovviamente una forte discriminazione associata a questo tipo di caratteristiche individuali. Questa è una tendenza francese molto chiara, repubblicana, uguaglianza. Ci sono poi altri esperimenti in corso, ad esempio Sciences Po, la prestigiosa università parigina dove insegno ogni tanto, ha messo su un programma di affirmative action all'americana, che è una cosa ben poco francese ma che fanno anche lì, ovvero sia di accesso privilegiata per studenti che vengono di licei di zone difficili. Le quote, insomma, solo che invece che per colore della pelle è per appartenenza, estrazione del liceo, quindi le non aree... è una vera quota, ma sì, dei programmi, certo di quota, ma programmi fatti in collaborazione con i professori per andare a pescare lì delle intelligenze che sono certamente vivaci, ma che non ce l'avrebbero fatta a superare le barriere sociali di accesso a una alta università. Ok, la fermo un secondo, poi torniamo con lei. Vediamo un secondo in Italia le cose come stanno. Do solo due date e poi parto chiedendo a Federica Guidi qual è la sua opinione. Innanzitutto, in Italia la mia opinione è che esista un problema ancora di discriminazione sulle lavoratrici, sulle manager, i quadri, le donne in azienda. Ricordo a tutti che nel nostro paese l'occupazione femminile è più o meno il 46,5%, i target europei sono il 60%, noi abbiamo ancora milioni di donne che teniamo fuori dal mercato del lavoro. Non è detto che ci vogliano stare, non ho questa impressione. Le teniamo fuori innanzitutto. Secondo dato, prendete oggi il Corriere della Sera, pagina 15, c'è un'intera pagina che riporta i dati di questa ricerca molto interessante fatta dalla Fondazione Leone Monoressa, che ha messo a confronto per la prima volta le cifre delle rilevazioni Istat sulle retribuzioni dei dipendenti. Le differenze delle retribuzioni dei dipendenti per nazionalità vedono una discriminazione molto forte sugli stranieri, sul totale degli occupati italiani. Gli stranieri sul totale degli occupati italiani guadagnano in media, se uomini, il 18,9% in meno dei lavoratori italiani, se donne il 28,4% in meno, per un totale di media uomini e donne del 22,8%. Quindi esistono queste due forti questioni. Quella femminile, secondo me, un po' poco ben valutata, e quella invece cui spesso ci occupiamo molto di più, che è quella dei lavoratori stranieri. Dottoressa Guidi, secondo lei iniziative come questa francese, che a me sembra più che altro una cosa un po' provocatoria, pongono il problema però di affirmative actions anche per quello che riguarda l'occupazione femminile e quella straniera nel nostro paese? A cosa si può pensare nel modello italiano e qual è la sua esperienza come giovane, come donna e come imprenditrice? Ma guardi, io concordo con quello che lei diceva, a me questa iniziativa convince poco, nel senso che non è un po' come quando si parlava delle quote rosa, ecco, le prendo come delle provocazioni, ecco, come delle cose su attraverso le quali in qualche modo puntare l'attenzione di più su un problema che c'è, ma non credo che questa sia la risoluzione, ecco, non, sinceramente non vedo questa come la soluzione del problema. Io dico anche che ho la sensazione che a volte si enfatizzi un po', insomma, questo discorso della discriminazione. Io temo che oggi, penso che oggi, insomma, nel mondo privato, insomma, delle industrie private che io leggermente un po', insomma, conosco, molto spesso, diciamo, il discorso della discriminazione, soprattutto per quello che riguarda gli stranieri o per quello che riguarda le donne, sia leggermente meno presente, non dico che non ci sia, dico che sia leggermente meno presente di quello che l'opinione pubblica crede. È vero rispetto alle donne, questo è certo, e l'ho detto più di un'occasione, poi ne faccio parte anch'io, ecco, di questa categoria, che rispetto alle donne c'è un problema di conciliazione, di politiche conciliative che in questo paese assolutamente mancano e che fanno sì che una donna oggi, nonostante abbia un ottimo curriculum magari di studi, ottimi skill eccetera, non riesca, perché il tempo del lavoro oggi è modificato, il modo di lavorare oggi è cambiato, non riesca, malgrado, diciamo, le sue ottime competenze, a destinare tempo, risorse e serenità, ecco, diciamo così, anche psicologica, alla propria carriera professionale alla pari di un collega maschio. Questo oggi effettivamente c'è ed è quello su cui credo si debba cercare di lavorare tutti, anche le aziende, considerando che oggi forse ci sono anche degli strumenti di lavoro, il telelavoro, ci sono, diciamo, fusi orari diversi in giro per il mondo che forse consentono di avere una flessibilità da destinarsi in particolare alle donne che, si sa, insomma, hanno tutto quello che riguarda la cura della famiglia, la cura dei bambini, la cura degli anziani, ecco, le politiche conciliative. Posso farle una domanda? Nella sua esperienza sindacale, contrattuale per le aziende che guida, di famiglia, per quelle che conosce delle diverse filiere, il sindacato in questi anni si è battuto tanto, troppo, poco di questa questione delle politiche conciliative in azienda per le donne? Io non ho l'impressione che ne abbia fatto davvero un punto fondamentale di svolta, ma forse dipende dal fatto che conosco meno direttamente il mondo delle vertenze sindacali. No, io credo infatti, come lei dice, che non sia stato senz'altro, diciamo, un punto diciamo che anche il sindacato ha preso come, come diciamo seriamente a cuore, ecco, probabilmente un po' tutti, insomma, ci siamo abituati a pensare appunto a un equalitarismo sostanzialmente, poi abbiamo perso di vista invece quali sono i punti critici reali. Io credo che il mondo delle donne oggi, io credo alla meritocrazia, poi è chiaro che è una parola abusata che a volte si fa fatica a dire che cosa voglia significare. Meritocrazia secondo me vuol dire che io quando lavoro in azienda e seleziono una persona, la seleziono in base al curriculum, alle competenze, a quegli skill che mi sembra che questa persona possa avere. Le dico di più, e lo dico da donna, non sono una femminista, ma le donne molto spesso hanno realmente una flessibilità mentale, una capacità di essere multitasking che un uomo non ha. E dico anche che oggi molti stranieri vengono richiesti dalle aziende perché si sa che tutti noi oggi abbiamo bisogno di gente che parli le lingue, che parli lingue straniere, che molto spesso i giovani italiani non hanno neanche mai avuto l'idea di iniziare a studiare. Però ecco, le politiche conciliative servono, perché certamente una donna che oggi deve prendere un aereo e stare in India 10 giorni per lavoro perché l'azienda ha un cliente là o si è andata a multilocalizzare là e nello stesso tempo ha un bambino a casa che non trova, non ha un asilo a cui mandarlo, ha tempi di chiusura e di riapertura di quell'asilo che sono completamente distanti dal tempo di apertura e chiusura della propria azienda o costano, diciamo, cifre improponibili, ecco, è evidente che questo è il punto. Una donna rinuncia a diventare, ad esempio, che ne so, capo della direzione commerciale e magari rimane a fare, non lo so, l'assistente del direttore commerciale che magari è un uomo. Ecco, questa è la realtà. Alessandra Servidori, innanzitutto bisogna avere meglio presenti i dati di che cosa si fa o non si fa in Italia, cioè questa banca delle buone pratiche, cioè quando si parla di esperienze conciliative si tratta innanzitutto di verificare che cosa di buono è in atto nel nostro paese e di capire in che senso poi la parte pubblica del mercato del lavoro può attivarsi al di là delle sensibilizzazioni nei contratti, nelle avvertenze, nelle rappresentanze sindacali su questo tema. Cerchiamo di capire, perché è proprio uno degli argomenti su cui lei è impegnata di più, queste buone pratiche sono abbastanza, sono semplicemente le punte dell'iceberg o esiste ancora un problema di vasta, diffusa, radicata cultura del disvalore del lavoro delle donne e degli stranieri che c'è da combattere nella realtà italiana secondo lei? Ma guardi, partiamo diciamo dall'inizio, perché anche a me preme esprime un giudizio sui francesi, sì. Iniziativa francese, che, francamente io la trovo molto curiosa, così molto così da slogan, da spot, perché è molto in contrasto anche con le direttive comunitarie e con l'adozione del curriculum europeo. E quindi io la trovo un po' isolata, ecco, come tante leggi sono state fatte in Francia, poi non sono poi state sviluppate, quindi da questo punto di vista io la guardo con grande perplessità questa iniziativa e oso dire che proprio non mi piace, non mi convince, perché io sono convinta, ai miei studenti a cui insegno strumenti contrattuali e anche come ci si pone quando si è alla ricerca del lavoro, io dico sempre che la fotografia, il modo di scrivere il curriculum, cioè declinarlo rispetto a quella domanda, a quell'azienda che chiede quella figura professionale, deve essere specifico, quindi mai fare un curriculum uguale per tutti, quindi anzi io sono proprio dall'altra parte, sono temo di pensarla come lei da individualista, ma poi dico la verità, io sono un imprenditore di me stesso, ma difendo il diritto degli imprenditori se la si gioca sul piano, come dice Guidi, delle competenze, della professionalità, della disponibilità, no? Ecco, quindi da questo punto di vista, in un momento nel quale poi il mercato del lavoro sta chiedendo profili professionali disponibili, nuovi, ci sono tutta una serie, no, di novità che si stanno muovendo, fermo restando che abbiamo la coscienza della difficoltà in cui diciamo, il nostro paese sta tentando di risollevare la testa e la schiena. Per cui prima di tutto facciamoci, come posso dire, anche portatori di una cultura della situazione economica, economica in cui viviamo e non viviamo solo nella nostra nicchia della differenza. Prima cosa. Seconda cosa, esistono sicuramente, noi oggi presentiamo l'osservatorio voluto fortissimamente dal ministro Sacconi proprio perché è all'interno di una nuova cultura che non è solo riparativa, quindi andare a sanare le discriminazioni, andare in giudizio contro gli imprenditori pubblico-privato che ha comunque consumato una discriminazione sulla persona, ma prevenire la discriminazione attraverso anche la conoscenza di una serie di politiche attive che possono aiutare e sostenere le buone prassi. Di buone prassi ne abbiamo moltissime, dottore, moltissime, sono nascoste, hanno consentito spesso di non andare in giudizio e sono state anche umilmente sviluppate all'interno di aziende pubbliche e private, e quindi è giunta anche un po' l'ora di dare modelli più virtuosi piuttosto che avere questa, come posso dire, persecuzione di tipo sanzionatorio e riparatrice. Noi siamo oggi, tentiamo anche, se lei vuole, dottore, di fare un'operazione culturale, perché anche questa questione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è sicuramente un problema di servizi e non solo pubblici, dottore, non solo certo. Pubblici. L'integrazione tra pubblico e privato, sa quanto le assicurazioni, le fondazioni bancarie avrebbero un vantaggio nello sponsorizzare, nel sostenere anche una rete di servizi integrati per l'infanzia, per l'adolescenza, per quello che è l'integrazione allo studio, cioè delle attività e dello studio, per i non autosufficienti, sa quanto del terzo settore si potrebbe mettere in gioco nel mercato, diciamo, della certificazione di qualità dei servizi. Ecco, sa quanto noi dobbiamo sperimentare il sistema di voucher alla francese, ecco, la Francia ci potrebbe insegnare questo. Noi andremo a Parigi a sottoscrivere la prossima settimana la Carta dei servizi alle persone, che è una carta europea, ma proprio presuppone un modello integrato. Allora ci vuole anche da questo punto di vista il cambio di passo della cultura degli italiani. Il lavoro di cura, il lavoro degli affetti può anche passare attraverso la suddivisione, diciamo, di alcuni ruoli. Le donne sono orgogliose, io per prima, di aver accompagnato i miei due anziani e di aver cresciuto i miei figli, però ho sempre avuto anche vicino, come posso dire, certo, compagni che mi hanno aiutato. Ecco, sì, questo poi è un aspetto che si tende a dimenticare, che poi gli uomini in questo, sono buoni a enunciare principi, ma nella prassi quotidiana, come compagni, come padri, come mariti, insomma, secondo me, nella mia esperienza, non sono poi un granché, non sono all'altezza dei principi che predicano. Dottoressa Guidi, siccome poi tra poco la salutiamo, che lei ha molto da fare, ma io volevo chiedere fuori dai denti una domanda un po' personale: ma le è mai capitato nei diversi tratti del suo percorso, quando studiava, quando si avvicinava nell'esperienza delle sue aziende di famiglia, quando poi si è candidata a ruolo in Confindustria e così via, di pensare tra sé e sé: ma questo aspetto, come donna, io vorrei avere un giorno il potere di cambiarlo proprio dalla radice, perché come vedo che sono organizzate le cose in questo pezzo di azienda, in questo pezzo di rappresentanza, significa proprio che gli uomini in questo non ci capiscono un accidente. Proprio glielo chiedo fuori dai denti. Ma sì, è evidente. Io ho sempre avuto un approccio, forse in questo sono stata fortunata da bambina. Io sono stata cresciuta come una persona che cresceva e che aveva, diciamo, delle aspirazioni. Io potevo giocare a calcio, non l'ho fatto perché non mi piaceva, giocare a tennis o andare a caccia anziché fare cose, diciamo, non mi interessava fare la ballerina da bimba, e quindi ho fatto altre cose. Io sono stata educata così e forse ho messo questo mio modo di essere anche nel mio lavoro, nel mio percorso di studio e poi in Confindustria. Devo dire che in Confindustria abbiamo donne diciamo ai vertici a livello provinciale, territoriale e regionale da molti anni, e infatti Emma Marcegaglia è stata, diciamo, la prima presidente donna dei giovani imprenditori, ha aperto in qualche modo la strada. In azienda, sì, quello che dicevo prima, io ad esempio in azienda lavoro con moltissime donne, alcune delle quali hanno anche dei ruoli realmente, diciamo, di importanti, insomma, realmente di dirigenziali, e quindi il nostro è un settore metalmeccanico, il mio ho un'azienda metalmeccanica, però ho donne che hanno incarichi realmente importanti in azienda. Però quello che dicevo prima, cioè io parlo con loro e mi rendo conto che hanno naturalmente un problema economico nel potersi pagare gli aiuti nel momento in cui gli asili non ci sono, costano troppo o aprono e chiudono a orari che non sono assolutamente conciliabili con quello che è il normale lavoro diciamo di una persona in un'azienda, e hanno a volte appunto anche psicologicamente purtroppo un limite nel poter destinare tutte le risorse, e sono persone capacissime, nel proprio percorso professionale a causa del fatto che hanno l'incubo delle 5:30 di pomeriggio, perché devono andare a ritirare il bambino che da qualche parte altrimenti viene messo, diciamo, fuori dalla porta. Grazie. Ecco, grazie, questo dottoressa. È, diciamo, qualcosa, sì, sulla quale penso che si debba cercare di fare tutto. Grazie, qualcosa, dottoressa Guidi. Come si è capito, non solo lo Stato, ma un servizio alla persona anche del welfare privato per integrare con la sussidiarietà. Sentiamo un po' di ascoltatori. Massimiliano da Roma, prego Massimiliano. Buongiorno, senta, io difendo anch'io il tema che trovo molto interessante e le dico che secondo me è un tema molto attuale. Io mi occupo di risorse umane con moltissime donne lavoratrici e sono d'accordo con la dottoressa Guidi soltanto quando afferma che le donne sono effettivamente molto flessibili e hanno anche la capacità di essere molto efficaci sul lavoro. Per il resto, per come la vedo io, le aziende in questo momento non si dimostrano a loro volta flessibili nei confronti di queste lavoratrici. Quindi tendono a tagliarle per prime, questa è la sua opinione? Ma tagliarle no, però a non assumerle. Negano... Mi scusi? A non assumerle? No, anche ad assumerle, però a non capire che una donna nella propria vita ha poi un periodo in cui ha la necessità di conciliare meglio la vita personale e familiare e la maternità con il lavoro. E quindi, per esempio, nel mio caso c'è una grossissima discriminazione non attraverso la mancata concessione del part-time, per esempio. Certamente. O di altre forme di orario flessibile. Quindi i lavoratori devono essere flessibili. Purtroppo l'azienda non lo è tanto e quindi, secondo me, si guarda questo aspetto da una parte sbagliata. La dottoressa Guidi diceva non ci sono servizi per le mamme, alle 5:30 i bambini sono scaricati sul marciapiede, secondo me le mamme dovrebbero avere l'opportunità di lavorare fino alle 5 e poi dalle 5 in poi stare con i propri bimbi, perché comunque nel loro orario di lavoro anche ridotto fanno molto spesso un buonissimo lavoro. Grazie Massimiliano, naturalmente questo è più possibile per una grande o grandissima impresa che per la realtà delle medie o piccole, che hanno minore flessibilità e minore possibilità di giocare sul costo marginale del proprio dipendente per utilizzo orario. Nicolò da Bergamo, Nicolò, ci dica, la sua esperienza qual è invece? Buongiorno, io intanto mi chiamo Nicolao. Il discorso è il seguente, io ho un cognome straniero, pur essendo completamente italiano, da madre, padre, eccetera, eccetera, è rimasta un'unica origine polacca del mio nonno e io porto oggi un cognome straniero. Ho avuto molte difficoltà nel mondo del lavoro, nel senso che non parlo di discriminazione, ma più che altro di diffidenza. Nel senso che io faccio l'agente immobiliare, di conseguenza io prima vendo quello che è la mia persona, successivamente poi vendo i servizi che posso offrire, eccetera, eccetera. E nel mondo del lavoro ho avuto difficoltà per il cognome fondamentalmente che porto. Infatti spesso e volentieri non ho mai presentato in pubblicità il mio cognome diretto, ma mi sono sempre presentato col nome di battesimo. Poi logicamente devo essere sincero, nell'arco degli anni poi la mia professionalità è venuta fuori e quindi sono entrato anche all'interno del tessuto sociale che fondamentalmente non mi conosceva. Ho capito, grazie Nicolò. Franco da Parma. Buongiorno, volevo far presente questo, anche lei lo ha menzionato, la discriminazione sulla base dell'età. Questo è un elemento molto evidente e che passa un po' sotto traccia. Ed è particolarmente contraddittorio. Perché? Perché esiste una pensione di anzianità, il lavoratore raggiunge una certa anzianità dove può andare in pensione, però per i motivi che vengono spesso addotti, cioè la vita lavorativa si allunga, in più i figli studiano a lungo e tardano ad entrare nel mondo del lavoro, quindi il lavoratore vuole rimanere al lavoro fino all'età massima, cioè a 65 anni. La devo interrompere per far notare che in Italia il lavoratore non è ancora così proprio propenso a volerci restare. Io ricordo che l'età media è inferiore a 61 anni quella di pensionamento reale nel nostro paese e inferiore di più di 12 mesi all'età media di prepensionamento nell'Unione Europea a 15, inferiore di 2 anni rispetto all'Unione Europea a 27. Potrei continuare a lungo. Comunque è vero, da una parte noi dovremmo e sottolineo proprio dobbiamo incentivare la gente a lavorare di più, perché altrimenti 25-35 anni di trattamento previdenziale poi sono un po' eccessivi per il conto intergenerazionale. Ma dice lei, se capisco bene, a fronte di questo poi per chi invece è più giovane c'è un problema, o no? Alcuni lavoratori, probabilmente pochi, se questi sono i dati che lei ha a disposizione, però esistono lavoratori che vogliono fermarsi al lavoro fino all'età massima consentita, che è quella di 65 anni, e lavoratrici. Sono pochi, ma ci sono. Ecco, su questi lavoratori le aziende, almeno un'azienda che io conosco bene perché ci lavoro, esercitano una forma di pressione, perché basta un trasferimento dalla mansione che uno ha svolto per tutta la vita, che potrebbe continuare a svolgere visto che non ci sono pensioni occupazionali, viene spostato a una mansione dove questo lavoratore di 60 anni, di 61 anni, deve cominciare a imparare tutto da capo. Questo vale specialmente per quei lavoratori che non hanno raggiunto delle posizioni dirigenziali. Allora per questi la situazione è diversa. Grazie a Fafranco che ci ha fatto riflettere anche su questa questione dell'età. Allora abbiamo ancora Andrea da Roma e Gianni da Roma, poi chiudiamo con gli ascoltatori. Andrea da Roma, prego, rapidamente. Buongiorno, rapidissimamente, io sono presidente di un'associazione, quindi ancora meno di una piccola impresa. Abbiamo dovuto assumere 4 segretari in questi anni, ma guardi, è come se ci sono le discriminazioni. Pensi solo che io ho voluto togliere dalle domande che il consulente del lavoro aveva messo nel questionario: sei fidanzata o sposata? Visto che ho una moglie licenziata in gravidanza, ho capito quanto mobbing e quanti licenziamenti in gravidanza ci sono nel nostro paese, e mia moglie viene dalla Germania, è rimasta esterrefatta dalla situazione qui per le donne in gravidanza sul lavoro, e io ho preferito non fare quella domanda. Poi dico l'ultimissima cosa, vado velocissimo, ma chi l'ha detto che questa idea francese debba portare a dei curriculum tutti uguali? Per esempio, io odio i curriculum in formato europeo, tendo quasi a non leggerli, amo i curriculum personalizzati. Sì, infatti. Però l'idea, guardi, l'idea che non ci sia il nome, eccetera, eccetera, che non faccia capire che magari una persona è dell'est o africana, secondo me è geniale, è fantastico. Quindi Andrea, abbiamo trovato chi difende l'impostazione di fondo del provvedimento francese. Io condivido però che dal punto di vista di genere in Italia, soprattutto per le qualifiche basse, guardate, diciamoci la verità, io ho un'esperienza nei giornali, non voglio diffondermi in particolare su come le giovani aspiranti giornaliste venivano scelte o non scelte da chi aveva responsabilità elevata in questi giornali, che mi hanno fatto vergognare di essere un maschio. Sto parlando di autorevolissimi grandi nomi del giornalismo italiano, che per conto mio non sono degni di qualificarsi come grandi giornalisti, innanzitutto perché non sono uomini, perché chi prende le ragazze per eccetera e le fa diventare giornaliste per questo, secondo me dovrebbe essere buttato fuori a calci nel sedere. Io l'ho sperimentata molte volte questa realtà. Abbiamo ancora Gianni da Roma. Buongiorno Oscar Giannino, complimenti, lei è un fine economista, l'ammiro merda, sempre. Detto questo, volevo focalizzare il concetto non tanto su questa boutade francese, ma sul modo di reclutare. In tutta l'Europa si recluta il personale attraverso il semplice scambio di email, e quindi perciò i francesi vogliono ovviamente cercare un modo di costruire la selezione in un certo modo che non condivido, ma non è questo che mi interessa. In Italia il 93% vengono selezionati per familismo, escluse le piccole aziende private al di sotto dei 15 dipendenti, escluse la Guidi, escluse la Presidente della Confindustria, che vengono da famiglie benestanti e con storia da imprenditori. 93% è il passaparola. Lei si è scordato, Oscar Giannino, dei dischetti alle Poste, dei dischetti di Mastella, dei dischetti Sud. 93% attraverso la selezione del passaparola. Quindi non c'è né merito né selezione sulla validità. C'è proprio un paese preistorico che seleziona il personale in questo modo, e le direzioni del personale sono costruite esclusivamente come uffici burocratici che seguono le direttrici dell'amministratore, le direttive dell'amministratore delegato. Lei queste cose le sa benissimo. Sì, no, ma guardi, le do molto più ragione di quanto lei non creda, che ci sia il meccanismo relazionale che porti a tutte queste strutture, è anche la mia esperienza, devo dire la verità. È stata la mia esperienza innanzitutto nelle imprese editoriali in cui ho lavorato, in cui devo anche testimoniare, però ci sono direttori e ci sono capi delle aziende che in taluni casi, alcuni di loro, alcuni di loro, Ferruccio De Bortoli è uno di questi, io gli rendo sempre merito, spesso non sono d'accordo con lui, ma è uno di quelli che prende i giovani pescandoli dall'Italia per qualità del merito. Ora, una testimonianza diretta da uno di coloro che in Italia più si è battuto negli ultimi 15 anni per accumulare documentazione e studi sugli effetti che nella psicologia individuale e collettiva il mobbing e la discriminazione sul posto del lavoro ha creato, ed è con noi per pochi minuti, perché lo stiamo sottraendo ai suoi pazienti, il professor Harald Ege, ma io credo che si debba pronunciare Ege con la G dura, perché credo che sia di nazionalità tedesca. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Che è autore tra l'altro di molte pubblicazioni su questo, io ricordo che ci ascolta solo Oltre il mobbing, training, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro di Franco Angeli, che trovate nelle librerie specializzate. Ecco professor Ege, da questo punto di vista quanto grave può essere l'impatto per generazioni intere di giovani lavoratori o di donne lavoratrici che non solo hanno difficoltà in ordine a questo, ma che vengono poi nella propria esperienza lavorativa a contatto per giorni, per mesi, magari per anni, fino a vedere la propria vita molto permeata, intaccata da questo, da fenomeni di discriminazione sul posto di lavoro, di pressione psicologica impropria? Ma certamente tutti i tipi di conflittualità sociali in ambiente lavorativo, ma anche familiare o con i vicini anche di casa, possono creare dei problemi e fenomeni psicosomatici. Sul posto di lavoro, certo, il posto di lavoro è sempre una convivenza forzata, nessuno va al lavoro soltanto perché non vuole andare in vacanze, ma abbiamo bisogno del lavoro per la sopravvivenza economica. Di conseguenza, se noi dobbiamo vivere una convivenza forzata come se fosse il lavoro, anche se fa piacere il lavoro, comunque possiamo trovare queste forme, come lei ha descritto, di discriminazione. Ma una discriminazione prolungata, cioè non per un giorno, per un'ora, per una settimana, ma delle volte per mesi o addirittura per anni, o creare una frustrazione dentro della persona che qualche anno fa è stata definita questo fenomeno un disturbo post-traumatico da amarezza. Significa che la persona ha questa amarezza, questa difficoltà di creare delle relazioni fra virgolette normali o sereni sul posto di lavoro, che crea una frustrazione protratta nel tempo. Questa condizione è diventata, secondo lei, un male di una generazione, oppure in realtà, visto che le discriminazioni erano ancora più pesanti nel passato, semplicemente nel passato nella condizione ordinaria di generazioni intere di lavoratori c'erano e non ce ne occupavamo? Io penso che il secondo punto che lei ha menzionato è più giusto. È chiaro, oggi con la crescita dei scienze sociali e la sensibilità su questi fenomeni, il fenomeno viene più studiato, però è un fenomeno che è vecchio come la umanità. Ecco, cioè, no. se lei pensa soltanto negli anni 20 o anni 30, chi non era nel partito fascista o in Germania nel partito nazista non faceva carriera, era escluso da tutte le possibilità di crescita professionale. Quindi la discriminazione ha sempre esistito. Ecco, io ringrazio il professor Harald Ege per questa sua testimonianza. Innanzitutto ricordiamoci che appunto noi ci occupiamo di affirmative action, dibattiamo su questo, ma in realtà i tempi pregressi che abbiamo alle spalle non sono certo da rimpiangere. Alessandra Servidori, un'ultima rapida testimonianza. L'esperienza che lei sta facendo come consigliera per le parità la soddisfa? Cioè trova che l'amministrazione pubblica sta tentando di diffondere davvero non solo le best practice ma anche qualche rottura di continuità nei vecchi condizionamenti culturali? Beh, assolutamente sì, perché io sono convinta che dipenda anche da chi viene messo nelle condizioni di agire. Io sono stata, come posso dire, anche chiamata dal ministro Sacconi per poter svolgere questo tipo di ruolo proprio a difesa delle politiche attive. Quindi di fatto le consigliere di parità, che sono poco conosciute sul territorio, sono pubblici ufficiali e sono poco conosciute, evidentemente hanno bisogno di avere un minimo di pubblicità e un minimo di anche aiuto dal punto di vista delle istituzioni, le regioni, le province, perché loro possono non solo sviluppare con i sindacati azioni di promozione, di conoscenza, conoscenze di formazione, anche in ambito di contrattazione decentrata, ma soprattutto agire con i giudici del lavoro, agire in nome per conto della persona che è stata lesa e quindi promuovere, ripeto, tutta una serie anche di conciliazioni, di aggiustamenti, richiamare al rispetto della normativa. Noi abbiamo magnifiche leggi che da questo punto di vista ci aiutano e ci sostengono, a cominciare dall'articolo 51 della Costituzione italiana, nel rinnovo dei contratti e nelle leggi. Abbiamo 21 proposte di legge che non trovano un unico testo unificante sul mobbing. Quindi ne abbiamo troppe, se mi permetta. Ha capito Giannino, il problema vero è essere, ecco, in grado di usare questi strumenti. Ecco, da questo punto di vista la domanda che lei mi fa è che io ho un'autostrada davanti da percorrere per sostenere le consigliere di parità, ecco, indicare loro la bussola, le norme, gli strumenti, le parti sociali, come posso dire, sia nel pubblico che nel privato. Grazie anche alla dottoressa Servidori, che quindi ci apre a una finestra di ottimismo. Però chiudiamo col professor Danini, perché la verità è che noi dobbiamo molto anche a quello che la Francia ha fatto per affermare i diritti, per affermare l'idea di eguaglianza. Poi lasciamo perdere come la si può pensare sull'eccesso di rigore squadrato francese, questo è il mio giudizio. Io sono un anglosassone, un individualista, a me piace un altro rapporto, meno Stato tra i piedi e libertà dal basso. Però detto questo, professor Danin, la Francia in questo, la Francia di destra, quella di Chirac, quella di Sarkozy, che sono due Francie molto diverse, rispetto all'idea di eguaglianza che è fondante nella Repubblica e così via, come si trova in questi anni? Cioè, perché in Francia c'è in realtà più scontro sociale che da noi, solo perché l'immigrazione, e dovrebbe essere il contrario, da noi è più recente, come diceva, che piuttosto che da voi, l'esperienza dell'impero, dell'integrazione in Francia è più antica, perché in realtà il problema dell'uguaglianza porta a più conflitto e scontro in Francia, perché si vede di più e perché più i francesi ci fanno più attenzione per via della rivoluzione, o perché c'è un problema di diseguaglianza maggiore di un paese che prima promuoveva l'ascensore sociale e oggi ci si è bloccato l'ascensore sociale? Allora, credo che la Francia va preso come test, e non fermiamoci sull'ideologia Francia-Repubblica, perché sarebbe fuorviante. Francia-Italia oggi, certamente la Francia è un rivelatore di tensioni sociali che possono benissimo ripetersi, ma anche gli Stati Uniti, uno potrebbe parlare dell'esempio americano per ragionare sull'esempio italiano. Le violenze dimostrano un blocco della società e quindi blocco dell'ascensore sociale, ovvero sia intere classi di età che sono uscite dall'immigrazione, non sono prodotte dall'immigrazione, ma sono francesi, come lo saranno i figli degli immigrati di prime generazioni italiane, quindi dei 4 milioni attuali, quando andranno poi a studiare fra pochissimo e si presenteranno sul mercato del lavoro, si trovano bloccate. Perché? Perché in Francia non funzionano più i meccanismi che una volta permettevano alle classi meno agiate ad accedere ai vertici della nazione. Questo in Francia era un meccanismo molto repubblicano, che certamente a lei, dottor Giannini, non piacerà. Era un meccanismo di selezione tramite concorsi, che partiva però dall'età di 12 anni tramite no, le grandi col, per carità.